People, questo è Jolly Roger. Yes people, questo è Jolly Roger, siamo nuovamente qui, questa è la nostra prima puntata della seconda stagione. Oggi è venerdì 16 settembre, come sempre siamo in diretta dal Brancaleone. Riprendiamo la nostra avventura dopo questa pausa estiva abbastanza lunga, anche se continua a fare caldo in questo settembre romano. Ma noi piano piano riscalderemo anche durante l'inverno. Detto questo, riprendiamo con un pezzo molto estivo che ci ricorda un po' l'estate passata e soprattutto è un pezzo che è stato l'ultimo, uno degli ultimi pezzi dell'ultima puntata di Jolly Roger. E iniziamo e poi ritorniamo direttamente in diretta dal Brancaleone. E poi passa un anno e ci sembra meno. Mi trovi diverso, mi prendi la mano. Da soli siamo tutti nessuno. Che vita è? La vita senza amore, dimmi tu che vita è? Dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. Bello stare a casa, musica italiana. E ci vuole ancora un po'. Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto. Se non vuoi non me ne andrò. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché no. Dirti di no quando l'Oktoberfest. Mi piace fare la festa. Tutti nel back, tutti nel back a far festa. Buonasera, e chiedo scusa, non ho capito cosa c'era nei suoi occhi. Droga? Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai. So che canzoni vuole lei, faccio parole col DJ. So che non hai visto le Hawaii, dirotteremo Ryanair e se ci becca una figa. La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché no. Questo è Jolly Roger, questo è il pezzo che fa parte del nostro mixtape. Tu che vita è? Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. E parte la corriera che mi porterà da te. La vita senza amore non mi farà mai bene, perché non so dirti di no quando. E torniamo in diretta finalmente dopo questa lunga pausa estiva, siamo nuovamente qua, siamo nuovamente al Brancaleone, salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che frequentano quello che è lo spazio del Brancaleone, salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche e colleghi di Idea Prisma che fra le tante altre cose domani festeggerà i suoi primi 40 anni e noi con Jolly Roger saremo in diretta sempre dalle 15 più o meno in poi. Troverete poi tutti i podcast di questa puntata e della puntata speciale di domani. Noi riprendiamo con le nostre consuete rubriche, iniziamo con la nostra fedelissima amica, l'abbiamo messa come prima in scaletta perché oltre ad essere l'unica, una delle uniche donne che fanno parte del programma, è anche, diciamo, freme nel ricominciare quello che è Jolly Roger. E ora passo il mic ad Alice. Ciao a tutti, bentornati. Oggi vorrei raccontarvi della mia vacanza. Sono stata al mare e in montagna, dove mi sono divertita tantissimo, perché abbiamo fatto escursioni, tra le tante la più bella è stata quando siamo andati in mezzo agli animali. C'era pure una mucca e mia mamma mi ha fatto una foto insieme. Ho anche fatto il freeline. Ora Alice ci spiega che cos'è il freeline, che io non ho capito, siccome sono abbastanza caca sotto, perché io preferisco stare con i piedi per terra, tutte le cose che volano sì e no, mi piacciono. Ora Alice ci spiega un attimino che cos'è questa cosa. È un gioco che è divertentissimo. Ti legano e salti su un tappeto elastico, mi sono divertita molto. Diciamo che questo qua, sì, è un tappeto elastico proprio fatto apposta. Per le persone che non sono caga sotto come me. Bravo, esatto, non sono come Pietro. Dai. E noi detto questo mandiamo il primo pezzo che ha scelto Alice e poi ritorniamo sempre qui in diretta, sempre su Jolly Roger. Così incredibile, incredibile. Una storia di diversa, non l'avremo mai, ma io ci sarò sempre, sai? Ogni giorno che passa io cresco, vorrei che il tempo si fermasse adesso, adesso. Ti sento, mi senti, siamo desideri come stelle cadenti. Tu non preoccuparti, se cadi dal cielo io sono qui a salvarti. Che sarà sempre così tra noi, io sarò per sempre qui, lo sai. Non c'è con te nessun perché, ma soltanto emozioni vere per sollevarti da tutte le preoccupazioni. Ti cerco nei cieli, ti cerco nelle costellazioni, e il futuro chissà dove ci porterà, verso quale strada o città. Incredibile, siamo e questo è Jolly Roger. È un altro mondo, il mondo qui con te. Non chiedermi perché, è naturale, così incredibile. Incredibile. Il più grande degli insegnamenti è che puoi controllare tutto, ma non i sentimenti. Lasciati andare, così naturale, ogni volta che ti senti giù ti chiedi se là fuori c'è qualcuno che prova ciò che provi tu. Ricorda che ogni uomo a volte sbaglia, respiriamo tutti la stessa aria, e a conti fatti, non conta quanto a lungo resti in piedi, ma in quanto ti rialzi. Ogni impresa è impossibile nella storia, è impossibile finché qualcuno non ci prova. E anche Jolly Roger è sempre più incredibile. Questo era il primo pezzo che Alice ha scelto per questa nuova stagione. La stagione passata siamo riusciti, nonostante i vari Covid, restrizioni e compagnia bella, nonostante tutto siamo andati avanti e siamo andati in onda riuscendo a fare 25 puntate. Quest'anno speriamo di farne molte di più. La speranza è che il progetto cresca insieme al progetto, cresciamo sia noi che i ragazzi. Detto questo, ripasso il mic ad Alice. Siamo stati anche in piscina e c'era pure l'idromassaggio alla schiena. Ho mangiato varie cose. Ma la cosa più buona è stato lo strudel. Praticamente è molto buono, cioè c'ha tutte le mele cotte. Sì, ma non svelare niente, perché poi c'è il momento delle ricette di Matteo. Visto che il pomeriggio è ancora lungo e l'appetito viene mangiando, magari proseguiamo con il racconto dell'estate di Alice. E sono tanto felice, sono della mia vacanza, perché mi sono divertita e riposata, ma sono anche tanto felice di essere tornata a Roma. Rivisto tutti i miei amici, ciao. Compresi noi che siamo simpatici, ma non siamo bellissimi, però ci laviamo anche. Ciao a tutti, ci sentiamo venerdì. Dai Ali, e noi proseguiamo con un altro pezzo scelto da Alice e proseguiamo la nostra puntata. se va, se va. Ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va, che va. E se va, se va, se va, tutto cambierà. Forza ragazzi, spazzola, e chi mi fermerà? Chissà se va, chissà se va. Ma certo che va, va tutto bene con Jolly Roger. Ma sì che va, ma sì che va, che va. Se non va, non va, non va, c'è una novità. Sai quanto me ne importa, che me ne importa a me. Per una che va storta, una dritta, c'è il prodotto. Saporita senza un po' di guai. Meglio un capitombolo che non provarci mai. Restare fermi non si può. Mi butto nella mischia, seguitemi un po'. Po, po, po, po, po, po, po, po. Chissà se va, chissà se va, chissà se va, se va. Ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va, che va. E se va, se va, se va, tutto cambierà. Forza ragazzi, spazzola, e chi mi fermerà? Chissà se va. E a Jolly Roger nessuno ci ferma. E va, ma sì che va. Solo il traffico. Ma sì che va, che va. Se non va, non va, non va, c'è una novità. Sai quanto me ne importa, che me ne importa a me. Per una che va storta, una dritta, c'è il prodotto. Ma che sapore ha? La vita è tanto bella, ma se non ci sta il coraggio, non è saporita senza un po' di guai. Meglio un capitombolo che non provarci mai. Restare fermi non si può. Mi butto nella mischia. E noi sì che andiamo, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì in diretta dal Brancaleone dalle 17 alle 18 su Pirate Radio. Saluto tutti gli amici del canale di Telegram, tutte le persone che ci seguono sui vari social, tutte le amiche e gli amici che ci ascoltano in diretta e soprattutto quelli che ci riascoltano in podcast. Detto questo, noi abbiamo ripreso tutto quanto, sono ricominciate le scuole, questa è stata la settimana della ripresa delle scuole, è ripreso il campionato già da un paio di settimane perché ci saranno i mondiali. Ieri grande risultato almeno per la Roma nelle coppe. E detto questo, noi riprendiamo una nostra e vecchia abitudine che è le scommesse. Più che scommesse, pronostici. Ed eccoci qua, questi sono i soliti nostri pronostici, i pronostici di Matteo. E ora passo il mic al nostro amico. Ciao a tutti, sono Matteo. Allora, parliamo di Serie A. Damo con le partite e con i suoi pronostici, poi mi raccomando, vale sempre quello che si diceva lo scorso anno. Noi li diamo, voi li giocate, se vincete, sempre qui a Via Levanna 11 stiamo, quindi magari veniteci a dare un prosecchino, una cosetta da mangiare. Domenica gioca Remoire Lazio, vide la Lazio, per 0-1. Poi Mota Juventus vince la Juve per 0-2. Poi Milan Napoli vince il Napoli per 3-2. Roma Lazio 4-1. Bomba, bomba. E questi sono i nostri pronostici. È appena arrivato il nostro amico Lucone, che salutiamo. Finalmente è ritornato anche lui in quel di Jolly Roger ufficiale. È ripartita la seconda stagione di Jolly Roger e noi partiamo con un pezzo fresh. È un pezzo che continua a essere un po' la colonna estiva. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà, sempre vivrà. Si allasciano, guardo i gabbiani lontano che scappano. Penso a carenza la faccia, io rapido vado nel panico del mio fare. Parte lo show come nel sud, Napoli ancora, coppa sto groove. Sento le voci delle signore sul balcone, gridare il tuo nome. Perché nessuno, ti giuro, nessuno può separare le nostre cose, come l'amore tra il mare e il sole, come le nostre parole. E ritorniamo in diretta, come ho detto prima, appena arrivato e ci saluta il nostro amico Lucone. Ciao! Mitico, e ci ha andato anche dei ciao. E ora noi proseguiamo quella che è un'altra consuetudine, sono le ricette del nostro chef Matteo. Pentastellato, anche un po' romanista dentro, anche se ti fa Lazio. E detto questo, vai, diamo con la ricetta. La ricetta dello? Noodle. Ieri metti mele e a coppetti, binoli, cannella, ovetta, un rotolo di pasta faia, il rum. Il rum, hai capito? Ma il rum è quello serio? Prendi un po' di ovetta e... mangiare con il crum in una ciotola, mettere le mele, i pinoli e la cannella e uvetta per girare. Aspetta, l'uvetta va bene strizzata. Girata. Unire il tutto e mettere tutto là sulla pasta faia, fate un bucate con la forchetta. Spennelliamo un po' con il latte e infornate. A 180 gradi il forno. Il forno velato per 25 minuti. Beh, dico, come sempre lui fa le ricette, ma a portare qualcosa da mangiare se ne parla chissà quando, soprattutto chissà come. Ma detto questo, noi proseguiamo con un altro pezzo scelto da Matteo, che un po' è stata anche la colonna sonora dell'estate. Non è stata nel nostro mixtape, però è sempre un pezzo molto fresh. Nel cuore solamente foto di paesaggi, e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo diavolo e vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se... E questo è Jolly Roger e questi è Giovani Wannabe. Per parlare di noi. Un po' il mood di Jolly Roger. Giovani Wannabe. Sia lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi. E forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni dinosauri. Sopra il vetro dell'Audi non la pulirò più. Che tempismo o'clock, bel teppismo black block che c'hai. Sei la storia Mark Block, un momento a Marcord. Dai scambiamoci tutti i guai. Come Jack on the Road. Sia lontano da me e portaci dove vuoi, ma portaci al Branca che ci sta Jolly Roger. E siamo sempre qui, siamo sempre in diretta dalle 17 alle 18 come tutti i venerdì. In via eccezionale siamo anche domani, che siamo in quel di festeggiamenti di Ideaprisma 82, perché ricordiamolo, oltre a essere i 40 anni della nostra cooperativa, sono, diciamo, è grazie alla cooperativa che è nato Jolly Roger, che è un progetto che si fa con i ragazzi e per i ragazzi. Detto questo, passo il mic all'ultimo, ma non di importanza, semplicemente in ordine di scaletta, almeno per oggi, è il nostro amico Luca. Ciao a tutti, sono Luca. Quest'estate sono andato in Calabria, a Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza. Il mare era stupendo, c'erano molti pesci che ti pizzicavano. Abbiamo mangiato la pizza margherita, non era per niente buona, è un sapore disgustoso, era meglio quella di Villa Verde. Era meglio una frittura comunque, eh? La frittura era molto buona. Poi siamo tornati un giorno prima perché siamo stati tutti male. Insomma, una vacanza finita proprio nel peggiore dei modi possibili. Ho iniziato le scuole superiori al CIOFS, vicino a casa mia. Mi trovo molto bene. Intanto mandiamo il primo pezzo che ha scelto Luca, poi ci torniamo in diretta e ci racconta la sua esperienza in questo della sua nuova avventura al CIOFS. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pouring up, up, up, out a liter. If you're keeping up, you should keep it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da da. Body. It's just us two in this party. That Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, up, be my waitress. No, we not in love, so let's make it. Tequila and vodka. Girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da da da da da. E ancheggiamo piano piano anche qui a Jolly Roger. E ritorniamo qui in diretta dal Brancaleone e come sempre da Jolly Roger. Abbiamo ripreso alla grande questa puntata, questa è diciamo la nostra prima puntata della stagione 2022-2023. Ora ripasso il mic a Luca che ci stava raccontando un po' della sua nuova avventura scolastica. Ho iniziato le scuole superiori al CIOFS. Vicino casa mia, mi trovo molto bene. Ieri non ci sono andato perché pensavo che dovevo entrare per le ore 8 del mattino. Oggi sono entrato verso le 9. Oggi due miei compagni di classe si sono comportati malissimo. Uno ha bestemmiato vicino a una suora che si è molto arrabbiata e l'ha sospeso per 3 giorni. Che bestemmiare non si dovrebbe mai farlo. Esattamente, poi davanti a una suora, con tutto il rispetto per la suora. È la suora Aurora, che io conosco perché ho un trascorso in quel del CIOFS, è comunque una persona, una suora sui generis, diciamo così. Pizzino. È un pizzino sto ragazzo. E un altro mio compagno ha fatto, guarda, non un saluto qualsiasi, ma ha fatto un saluto brutto che l'ha preso dall'antica Roma un certo Mussolini, perciò il saluto fascista. E chi lo fa un maleducato, non al fascismo. Benissimo, benissimo, vedi quando cresciamo le generazioni, quelle serie con determinati valori è sempre piacevole. E ora noi proseguiamo la nostra scelta musicale e poi proseguiamo sempre qua con un'altra chicca del nostro amico. mi sveglio ancora truccata, con i vestiti della sera prima, mal di testa alla finestra, il sole strilla per strada. Che cosa hai fatto ieri, bambina? Forse solo due o tre cose, mi sembrava di volare così. Ho fatto piccole le ore in un locale sul mare, con le amiche era una vita che non stavo così. C'era la luna, avevo voglia di gridare con te. Ci era mancato Jolly Roger, diciamolo, a noi era mancato tanto. Noi ci siamo fermati con i ragazzi, abbiamo proseguito a vederci e abbiamo diciamo anche studiato per quella che è la puntata di oggi e quella che sarà la puntata di domani. Detto questo, nonostante i vari sorrisi e le varie battute che qua dietro riempono il Brancaleone, passo il mic al nostro amico Luca e le sue consuete battute. Ho scoperto che si può salire in sul treno anche in tre, anche se... Ritorniamo sempre qui in diretta dal Brancaleone e ripartiamo con la consueta rubrica del nostro amico Luca. Ho scoperto che si può salire in treno anche in tre, anche se c'è scritto tre no. Marinaio, te lo dico io che te sta un attimino in ceppa. Marinaio. Il marinaio spiegò le vele al vento, ma il vento non capì. Due cassaforti si incontrano per strada, che combinazione perfetta. E queste erano le battute di Luca, è preso un po' dalla tensione che era anche lui da tanto che non andavamo in diretta, chiaramente, ma questa è la prima delle tante puntate, quindi piano piano ci riscioliamo e riandiamo con un pezzo che, diciamo, ora iniziamo una selezione dedicata soprattutto ai Dea Prisma, ma non dedicata per via delle canzoni, ma perché sono tutti pezzi dell'82, quindi ormai pezzi che hanno fatto storia su storia della musica italiana e non. E noi iniziamo così. Could it be the little things you do to me? Like waking up stranger. I just can't imagine what he wants of me. When I'm with you, it's paradise. No place on earth could be so nice. Through the crystal water. E questo è il primo pezzo che targato 1982. E nel 1982 nasceva Idea Prisma. Iniziamo oggi direttamente il venerdì, festeggiamenti per quelli che sono i 40 anni, i primi 40 anni di Idea Prisma, cooperativa sociale. È la nostra cooperativa, è il nostro mentore, quello che ci ha permesso di intraprendere quello che è il nostro laboratorio, quello che è, o meglio, Jolly Roger. Proseguiamo la nostra scelta musicale, in questo caso sempre targata 1982. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on... Come siamo romantici. Keyboard, oh Lord. Come siamo nostalgici. We... Abbiamo studiato, ve l'avevo detto, eh. Learn to give each other what we need to survive. Together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony. Side by side on my piano keyboard. together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. E come detto, domani saremo presenti anche noi per festeggiare i 40 anni di Idea Prisma, i primi 40 anni di Idea Prisma, e ci trovate precisamente in quel di Casal di Capobianco, sulla Nomentana 1452. Jolly Roger andrà in onda, come detto prima, sempre dalle 17 circa alle 18. Faremo compagnia e presenteremo, diciamo, inizieremo quelle che sono le danze che dureranno tutta la giornata di domani, sabato 17. E noi proseguiamo con un altro pezzo sempre dell'82. Noi ritorniamo sempre in diretta dal Brancaleone, una decina di minuti circa al termine della nostra prima puntata della stagione 2022-2023. Stiamo qui presentando quello che saranno domani i festeggiamenti per Idea Prisma, i suoi primi 40 anni. Poi seguiamo con un altro pezzo sempre targato 1982, gli ultimi due pezzi, diciamo, dell'82. Il programma è un programma ricco di amici che domani parteciperanno a quella che è la festa. E ci saremo noi che apriremo le danze, e quindi, aprendo le danze, mandiamo un pezzo. Quando ho bisogno di te. E succederà che Jolly Roger ci sarà sempre più spesso. Succederà. Oltre ai venerdì. E cambiandomi. Più Jolly Roger. E io se farei. Succederà più. Morirà. Ma mi ci vedi così. A dirti sempre di sì. Sei stata, lo sei sempre, lo sarai. La donna che ho voluto e che vorrei. Succederà che torno di te e tu ti addormenti senza succede me. Succederà che tu non ci sei. E noi ritorniamo in diretta sempre dal Brancaleone, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Sto ripetendo da circa 20 minuti che domani siamo a festeggiare i 40 anni di Idea Prisma. Idea Prisma sono 40 anni che è presente sul terzo municipio, in quel di Montesagro, Vigne Nuove, e quindi diciamo un pezzo di territorio che ormai è cresciuto piano piano. Erano ragazzi quando si era intrapresi la carriera territoriale, ma e ora siamo cresciuti sempre di più. E noi proseguiamo con un altro pezzo, sempre 1982. Sei E noi non siamo a pezzi, siamo belli hype, perché questo è Jolly Roger. Ultimo pezzo per noi, una dedica speciale a tutti i speaker di Pirate Radio, a tutti gli amici che ci ascoltano, che partecipano sia attivamente che in maniera di partecipativa a quello che sta diventando sempre più una realtà, che è Jolly Roger. Un ringraziamento a mio fratello Taueli, ai Breda di Firebomb Babylon, Smash e a Ilario. Un ringraziamento a tutti quelli che ci ascoltano, tutti quelli che ci riascoltano. E noi proseguiamo con il nostro ultimo pezzo. Ci si risente domani e ci si risente anche venerdì prossimo. Questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18 in diretta dal Brancaleone. Un saluto a tutti. Batticiglio mentre te ne vai, la vedo dura, io cercavo una cura e tu non ce l'hai. Rispondi bene a chi ti chiede come stai, ma oggi è meno vero che mai. Tutto cade a pezzi, ci balliamo sul lento, musica da intrattenimento. Se mi cercassi dentro troveresti il vento delle porte che stiamo sbattendo. L'odio chiama l'odio e non gli andiamo appresso, ed ogni nodo tira un nodo più spesso. Se ci trovassi un senso, dimmelo fai presto, perché io l'ho perso. Fuori è un mondo sotto lo zero, esco solo a camminare, ci alleniamo a stare soli, a costo d'essere liberi. So che ci credevi davvero, davvero, ma partiamo in cento e ritorniamo soli. Prezzo d'essere liberi. Ho perso un treno e quello dopo, scavato in questo vuoto. Non mi vengono in testa i nomi anche se ho qui le foto, ma non il tuo nome e le mie ferite. Perdiamo tutto in una lite. Dio, se c'è un Dio vorrei fosse più vicino. A volte sogno di tornare bambino, per guardare il mondo che scorre dal finestrino, come se lo avessi visto per primo. Fuori è un mondo sotto lo zero, esco solo a camminare, ci alleniamo a stare soli, a costo d'essere liberi. So che ci credevi davvero, davvero, ma partiamo in cento e ritorniamo soli. Il prezzo d'essere liberi. Se guardassi dentro di me, ci troveresti il vento forte di tutte le porte, di tutte le volte che te ne vai. Fuori è un mondo sotto lo zero, esco solo a camminare, ci alleniamo a stare soli, a costo d'essere liberi. So che ci credevi davvero, davvero, ma partiamo in cento e ritorniamo soli. Prezzo d'essere liberi. Fuori è un mondo sotto lo zero, esco solo a camminare, ci alleniamo a stare soli, a costo d'essere liberi. So che ci credevi davvero, davvero, ma partiamo in cento e ritorniamo soli. Il prezzo d'essere liberi. Il prezzo d'essere liberi. Essere liberi.